Eccoci a visionare il cinema su Radio Onda Rossa, giovedì 16 novembre del 2017, 87.9 la modulazione di frequenza, ci ascoltate qui e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page trovate Ascolta la diretta. Primo collegamento di quest'oggi con Giacomo Ravesi per parlare della 10ª edizione del Visioni Fuori Raccordo Rom Documentary Fest dal 15 al 19 novembre, quindi è cominciato ieri. Giacomo, ben ritrovato. Ciao, ben ritrovati a tutti. Allora, raccontaci un po' di questa 10ª edizione, quali sono le caratteristiche intanto più in generale e poi come si compone? Sì, 10 anni e siamo arrivati quindi a questa data. Come da tradizione portiamo il documentario italiano internazionale dell'ultimo anno, dell'anno precedente a Roma. Due grandi forme, una è quella del concorso italiano, quella che appunto abbiamo sempre portato avanti ormai da 10 anni, quindi film italiani che si confrontano con l'idea, diciamo, di periferia nelle varie declinazioni, da quella urbana più chiara a quella invece metaforica, esistenziale e via dicendo, in un'era di grandi trasformazioni, eccetera, e quella invece del panorama internazionale, Homelands, che si confronta invece con l'idea appunto del senza patria, dell'essere fuori appunto da delle regole consolidate, e in quest'anno in particolar modo si confronta con la definizione del corpo, perché sembra che proprio il corpo è l'unico elemento che ci accomuna in un territorio, in una cultura completamente eterogenea. Siamo 3 giorni, ieri abbiamo iniziato all'Apollo 11, quindi fino a venerdì dalle 18 alle 22 c'è una proiezione anche alle 20, dove ci saranno sia opere internazionali sia opere chiaramente italiana, e poi sabato 18 invece dalle 16, le proiezioni sono sempre alle 16, alle 18, alle 20, alle 22 al Teatro Palladium. Benissimo. Senti, per il programma e tutte le informazioni ci dai tutti i riferimenti web? Certo, www.fuoriraccordo.it, se volete potete anche consultare la pagina del Teatro Palladium e quella Facebook Apollo 11 dell'Apollo 11 appunto. Senti, già ci hai detto quante opere saranno complessivamente presentate? Sì, abbiamo 9 opere, okay, di film in concorso, che chiaramente c'è anche una giuria, ci sarà le premiazioni appunto domenica alle 22 al Teatro Palladium, e invece sono 6 le opere internazionali. Okay. Ieri poi abbiamo fatto anche un'opera fuori concorso, diciamo. Bene. Abbiamo presentato un'opera fuori concorso. Allora Giacomo, io ti abbraccio, buon festival, a risentirci presto. Benissimo, grazie a voi, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Giacomo Ravesi della 10ª edizione del Visioni Fuori Raccordo Rom Documentary Fest, cominciato ieri fino al 19 novembre. Valerio Ialongo, regista del documentario Il senso della bellezza, in uscita in sala il 21 e il 22 novembre. Valerio, ben ritrovato e, come ti dicevo prima, complimenti per il tuo lavoro che ho visto l'altro giorno. Grazie Federico, è stata una lunga avventura e sono molto felice che esca in così tante sale, perché insomma uscire un documentario che esce in 70 sale non è una cosa di tutti i giorni, almeno per me. Certo, certo. Allora, si parla di un progetto europeo virtuoso nelle intenzioni, nella composizione umana che lo porta avanti e anche nelle finalità. Sì, guarda, diciamo che il progetto nasce proprio dall'incontro di questa grande comunità del CERN, che effettivamente è una comunità che ha un DNA europeo, ma che ormai si estende a 110 nazioni, 11.000 scienziati. È questo che mi ha molto sedotto, perché io poi non ero un fisico, uno scienziato, ho dovuto studiare per fare questo film, ma quello che all'inizio mi seduceva era un po' una visione di un'assenza diversa, forse più umana, dove è ancora possibile farsi le grandi domande anche filosofiche, no? Dell'origine di tutto, insomma, l'origine dell'universo, in fondo è stata l'origine della filosofia, e in qualche modo al CERN questa scienza dal volto un po' più umano mi sembrava di poterla vedere, forse proprio perché non ha una finalità concreta, no? Sì, sì. Tra l'altro al documentario abbiamo dedicato la copertina di questa settimana con la foto della locandina che sembra quasi un globo oculare. Valerio, dici un po' di questo, il senso della bellezza di questo titolo. Ma questo titolo è un titolo che viene soprattutto da un'idea, cioè da questa bellezza che in qualche modo unisce l'artista come lo scienziato a livello di intuizione, cioè come se fosse un sesto senso o un settimo senso, che così leggendo, incontrando questi scienziati mi sono reso conto che poi alla fine spesso dietro una ricerca di un'equazione, di un esperimento, di una legge fondamentale della natura c'è un'intuizione in cui verità e bellezza in qualche modo entrano in contatto, e a volte loro la chiamano semplicità, a volte la chiamano eleganza, ma certo che questa è stata una rivelazione per chi come me non era così addentro alle ricerche della fisica, e quindi è stato questo che mi ha un po' spinto a fare il film e a trovare questo titolo. Senti Valerio, una curiosità, il CERN di quali finanziamenti gode? Il CERN è diventato un modello che viene studiato anche a livello sociologico perché è di estremo successo in quanto non ha una struttura forte verticistica. Sono questi 110 paesi che inviano le loro delegazioni, i loro scienziati e anche i finanziamenti. Ovviamente i paesi fondatori, tra questo l'Italia è uno dei più importanti, perché non dimentichiamo che ci sono 1500 scienziati italiani al CERN, dopo gli americani siamo il primo gruppo per importanza, per numero, e quindi chiaramente i paesi fondatori, dicevo, contribuiscono con un finanziamento che contribuisce a tenere in piedi la struttura di Ginevra, ma tutte le ricerche sono in realtà hanno fondi da tutto il mondo. Sì, sì. Senti, quest'uscita di 2 giorni? Ma è stata una scelta di Officine Ubu, diciamo, perché il 21 e il 22 ci sembrava un modo per raccontare l'intensità di un'uscita, no? Attraverso quella che oggi viene chiamata un evento. Ovviamente come regista mi auguro che il film possa poi continuare la sua vita anche al di fuori dei grandi numeri di questi 2 giorni, magari al di fuori, in sale di centri storici di qualità che in qualche modo aiutino il film a trovare un suo pubblico. Bene. Allora Valerio, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci alla prossima. Crepi il lupo e buon lavoro. Ciao, grazie anche a te. Ciao, ciao, ciao, ciao. Valerio Ialongo, regista del documentario Il senso della bellezza, in uscita in sala il 21 e 22 novembre prossimi. Eccoci con Daniela Maurizi del Comitato per la riapertura del Cinema Galaxy sul convegno organizzato dallo stesso comitato qui a Roma, la Biblioteca Basaglia, domani venerdì 17 novembre. Daniela, benvenuta, ben ritrovata. Buongiorno, ben trovati. Allora, non hai detto il titolo però, forse, Un futuro senza cinema, nuove idee per rilanciare le sale cinematografiche. Perfetto, lo perché perfetto. È un manifesto, insomma, c'è tutto il programma dentro questo titolo. Bene. Procediamo. Allora, si parte da un quartiere, Prima Valle, da un cinema che ha chiuso. Raccontaci un po' com'è nato il comitato. Sì, allora l'idea nasce in seguito all'ennesima chiusura di un cinema di quartiere, il Galaxy ex Niagara, nello storico quartiere di Prima Valle che molti cittadini romani ricorderanno. dopo le ferie estive è stato chiuso questo cinema e un mese fa abbiamo costituito un comitato cittadino per la riapertura del Galaxy, a cui ha fatto seguito una raccolta firme, un'interpellanza al municipio. Però non contenti, abbiamo voluto allargare la prospettiva oltre la battaglia locale per affrontare la più generale crisi delle sale cinematografiche nel territorio urbano e nazionale, perché la chiusura delle sale è un fenomeno che si sta diffondendo in tutta Italia, è sì, un fatto ormai, è un dato di fatto. Da qui l'idea di un convegno come laboratorio di idee e proposte condivise fra diverse realtà e soggetti del settore. Infatti domani avremo con noi cineasti, gestori, critici, legali, rappresentanti dei lavoratori, architetti, comitati cittadini, associazioni, insomma tutti questi soggetti domani si ritroveranno insieme per formulare delle proposte propedeutiche a una delibera comunale di iniziativa popolare a sostegno dei cinema e delle sale cinematografiche, in prospettiva di una proposta di legge nazionale, perché bisogna lavorare su due fronti, su due scale, quella comunale e quella nazionale. Ovviamente verranno messi in campo diversi temi di natura politica, economica, culturale, tecnica, indagheremo i possibili strumenti legislativi e tecnici, le competenze istituzionali, le possibili forme di sostegno economico ai proprietari e ai gestori, perché che non ce la fanno più, perché effettivamente sì, i costi sì, di gestione sono molto alti e quindi bisogna pensare anche a loro. Il recupero, poi anche la ristrutturazione delle sale è un altro tema importante, sale che vanno sicuramente ripensate nell'ottica di una polifunzionalità culturale e di un ridimensionamento della superficie. Ma ci saranno anche degli architetti presenti al convegno, in particolare Flavio Mangione, che è il neopresidente dell'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, che ci darà degli input sicuramente interessanti. E poi non trascureremo le problematiche del fare cinema di qualità, a partire dalla realizzazione, alla distribuzione, alla diffusione. Ci saranno diversi cineasti che ci racconteranno la loro esperienza. Infine ci sarà, cioè, da affrontare il problema dei lavoratori del cinema e della, e dello spettacolo, che troveranno nel convegno i loro degni rappresentanti. Beh, insomma, è un tema ampio, complesso, che richiede un grande coordinamento fra tutti i soggetti interessati. Noi ci stiamo lavorando da meno di un mese, siamo contenti perché questa lotta va avanti con molto entusiasmo e sta dando i suoi frutti. Domani quindi sarà l'inizio di un percorso condiviso e partecipato che noi ci auspichiamo nel medio e lungo termine darà i suoi frutti, ecco, siamo molto molto fiduciosi. Sì. Senti, purtroppo in Italia l'idea che... Dimmi. No, stavi continuando. Purtroppo in Italia l'idea... È l'idea che la cultura non fa reddito è diventata in molti casi una triste realtà. Sì, infatti. Gli imprenditori e i gestori con i quali abbiamo avuto dei contatti lamentano questa cosa, dicono è inutile continuare a inserire le attività culturali in questi spazi che non portano reddito, quindi non abbiamo la possibilità di portarla, di mantenere in vita questi spazi. Però noi, prendendo atto di questa realtà che è strutturalmente e socialmente cambiata, perché è vero che sono cambiate le forme di fruizione del cinema, la gente esce meno di casa, noi cerchiamo di trovare nuovi modi per portare la gente al cinema, anche solo per uscire di casa e usufruire di un'offerta culturale. Basterebbe questo per recuperare e ricucire il rapporto tra cittadino e spazio pubblico, quale luogo della relazione. Sì. In fondo, cioè, al di là del cinema, l'obiettivo che soggiace a tutti i discorsi è proprio questo. Cioè, il cinema è importante anche per recuperare il rapporto con la città attraverso la cultura e non solo per andare a fare shopping, no? Sì. Quindi... No, in questo discorso poi sulla cultura legata al reddito spesso non viene calcolata, faccio l'esempio dei festival, tutto l'indotto che i festival portano con loro e quindi altri soldi che comunque arrivano nei specialmente, sto pensando per esempio ai piccoli comuni delle metropoli, e quindi questo non viene calcolato ma è una realtà, ma è una realtà. Senti Daniela, forse c'è proprio intenzione politica di boicottare la cultura, ma sappiamo che la cultura e politica hanno divorziato da molti anni in Italia, quindi è un problema. Senti, Daniela, in chiusura ci lasci, allora ci ricordi l'orario, il luogo e poi i riferimenti web per saperne di più rispetto al comitato. Benissimo. Allora, il convegno si svolgerà domani, venerdì 17 novembre alle ore 16 presso la Biblioteca Franco Basaglia in via Federico Borromeo 67, quartiere Prima Valle. Titolo Un futuro senza cinema, nuove idee per rilanciare le sale cinematografiche. L'evento è organizzato dal Comitato per la riapertura del Cinema Galaxy. I dettagli li potete trovare nella nostra pagina, la pagina Facebook Riapriamo il Galaxy, basta digitare questa frase e vi apparirà la pagina con tutti i riferimenti. Non so se ho ancora un minuto per... Vai. Per dire da dove è nato il nome I Guardiani del Galaxy, ci teniamo molto a questa identità. Allora, lo spirito che anima la nostra lotta, diciamo, è stato egregiamente espresso da questo titolo, che è una felice intuizione di Ugo Caruso, il nostro brillante storico dello spettacolo, che appassionato di cinema, che introdurrà il convegno. È una definizione che attinge all'immaginario pop dei fumetti della Marvel ed è diventato il nostro logo. E in primo luogo per l'assonanza diretta col nome, The Guardians of Galaxy, e poi perché ci piace sostituire all'idea del guerriero l'idea del guardiano, perché il guardiano vigila, non si muove dalla sua posizione ma avanza sul piano delle idee, è assertivo, perseverante, centrato, non spreca energie ma ha un potenziale straordinario che attiverà al momento giusto. Quindi I Guardiani del Galaxy vigilano e avanzano, e a chi ci ascolta diamo appuntamento domani alle ore 16 nella biblioteca Basaglia per condividere insieme l'inizio di questo percorso. Siete tutti benvenuti. Bene, allora senza cinema, speriamo di no, noi lavoriamo perché ciò non accada. Questa è l'ultima parola. Ci terrai aggiornati, un abbraccio e a risentirci certamente presto. Ciao. Grazie, Daniela. Buon lavoro. Ciao. Daniela Maurizzi del Comitato per la Riapertura del Cinema Galaxy, sull'appuntamento di domani alla Biblioteca Basaglia, venerdì 17 novembre. Marco Pollini di Ahora Film sulla distribuzione del film Lezione di pittura di Pablo Perelman, in uscita in sala oggi giovedì 16 novembre. Marco, ben ritrovato su queste frequenze. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, per chi ci ascolta, raccontiamo subito brevemente la trama, la storia di questo film. È un film ambientato nel Cile degli anni 60, una bella storia delicata di un piccolo bambino cileno, tratto appunto da un romanzo, da una storia vera, un piccolo bambino cileno che è un genio della pittura e riesce a raccontare il farmacista del paese, di questo piccolo paese cileno, e l'evoluzione di questo bambino, le sue capacità, le sue grandi capacità. E purtroppo questo bambino finirà male perché è uno dei tanti desaparecidos del Cile di quegli anni. Sì. Senti, come hai incontrato questo film e deciso di distribuirlo, Marco? Noi giriamo come ora tutte le fiere internazionali e cerchiamo di scovare sempre dei piccoli film che raccontano delle storie sociali importanti, quindi da Condotta, un film cubano che abbiamo distribuito 2 anni fa, poi Fiore del Deserto, poi questo Lezione di pittura, quindi piccoli film che cerchiamo di scoprire, di andare a ricercare, anche se non sono magari recentissimi, però che abbiano qualcosa da dire. Senti, che uscita avrà? Quante saranno le sale? Iniziamo con 3 sale questo fine settimana e poi i nostri sono film che rimangono al cinema anche 6 mesi, perché cerchiamo di lavorarli in tante rassegne, in tanti incontri, quindi non solo l'uscita per 1 o 2 weekend, ma cerchiamo di insomma lavorarli per tanti mesi, farli scoprire piano piano al pubblico in tutte le parti d'Italia. Allora, ci dai i riferimenti di Ahora Film per saperne di più? Sì, ahorafilm.com è il nostro sito, su Facebook ci trovate come su Ahora Film e anche su Twitter, e quindi soprattutto Facebook è abbastanza aggiornato con tutte le novità. Benissimo, allora Marco, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a tutti, buona giornata a tutti. Ciao. Marco Pollini di Ahora Film sulla distribuzione del film Lezione di pittura di Pablo Perelman, in uscita in sala oggi giovedì 16 novembre. Thomas Torelli, regista del documentario Food Revolution. Thomas, ben ritrovato. Grazie mille, buongiorno a tutti. Allora, è nostra consuetudine contattarci non appena esce fuori un tuo nuovo lavoro. Thomas, questo raccontiamolo un po' a chi ci ascolta. Io ho avuto modo di vederlo quest'estate al Clorofilla Film Festival, davvero un lavoro interessante. Di cosa si parla? La Food Revolution è un film che cerca di analizzare tutto ciò che c'è intorno al mondo dell'alimentazione, specialmente, principalmente dietro al mondo degli allevamenti intensivi, cercando di sottolineare il fatto che un eccesso di alimentazione carnivora crea problemi a se stessi, quindi di salute, problemi al pianeta e problemi a 70 miliardi di animali. Ovviamente questo certo non si è raccontato in maniera oggettiva e senza scendere in eccessi di talebanesimi alimentari, insomma. Sì, sono sostanzialmente, ricordando il tuo documentario, tre ordini di problemi. Quello è legato al consumo di acqua e quanta acqua ci vuole per un chilo di carne, calcolato scientificamente nel tuo film. Quanti campi coltivati ci vogliono per le mandrie da allevamento, e poi l'emissione di anidride carbonica che va ad aumentare l'inquinamento del pianeta. Sì, questa parte qui è tutta la parte che riguarda i danni all'ambiente, che sono poi la cosa che principalmente mi ha mosso nel poter cominciare questo progetto, perché oggi nessuno ci racconta in maniera equa quanto un chilo di carne che viene da allevamenti intensivi è costato al pianeta. Per esempio, i dati che dicevi prima, cioè un chilo di carne equivale a circa 16.000 litri d'acqua, ed è un dato incredibile se si pensa al fatto che nel mondo ci sono persone che non hanno accesso all'acqua potabile, o che noi utilizziamo 860 tonnellate di grano, cereali, soia, mais per far mangiare le mucche negli allevamenti intensivi negli Stati Uniti. Sono negli Stati Uniti, e la stessa, cioè, che arrivano negli Stati Uniti, perché poi vedete, spesso queste mucche non stanno neanche lì fisicamente. Sì, sì. E la stessa quantità di cibo basterebbe quasi per sfamare 900 milioni di persone. Sì, questi sono dati incredibili. Cioè, da una parte del mondo, nel Nord America, c'è la grande epidemia di obesità, e in altre parti del mondo ci sono ancora oggi persone che non riescono a fare più di un passo al giorno, o a volte neanche quello. Insomma, questo secondo me è una profonda ingiustizia, e se si pensa che soltanto cambiando alimentazione si può contribuire a rallentarla o eliminarla, secondo me è giusto fermarsi un attimo a riflettersene. Tra i tuoi vari interlocutori ci sono appunto vari interlocutori, hai pescato un po' ovunque, soprattutto nel campo della ricerca e della scienza. Sì, dal punto di vista medico abbiamo parlato con Campbell, che è il medico che ha scritto un libro che si chiama The China Study, che è più che un libro uno studio universitario, sostanzialmente è durato 27 anni, dove si mette in correlazione alimentazione e malattie in quasi tutto il mondo, e da questo studio è emerso in maniera macroscopica la correlazione tra eccesso di carne rossa e malattie tumorali. Sì, e quindi lui dimostra sostanzialmente che se superi la quota di fabbisogno giornaliera di proteine animali, le cellule rischiano di andare a sviluppare più velocemente malattie tumorali. E questo è il professor Campbell, cioè sia lui che il figlio, che è l'attuale presidente dell'associazione dei Cianastati. Poi c'è il dottor Berrino e Mailu Mengoni, dal punto di vista, diciamo, medico. Sì, sì, sì. Senti Thomas, un lavoro sviluppato attraverso il crowdfunding, e poi c'è a breve una data romana, ed è anche quello il motivo per cui ci siamo sentiti oggi. Eh sì, questo film è stato prodotto grazie al crowdfunding, che è un sistema di produzione che a me piace tantissimo, perché insomma mi piace portare avanti progetti che siano un contributo alla diffusione di messaggi indipendenti, e l'indipendenza in qualche modo costa, perché bisogna essere liberi di dire ciò che si scopre senza dover scendere a compromessi, e per fare questo noi lavoriamo insieme a tutte le persone che decidono di sostenerci. Infatti stiamo oggi, in questi giorni, portando avanti un nuovo crowdfunding per il prossimo film. Sì. E vabbè, poi magari questo, se ti va, dopo ne parliamo. Sì. E la data romana è domenica sera, in cui faremo, io ho una conferenza dove farò vedere dei momenti di tutti e tre gli ultimi film, che sono Un altro mondo, Food Revolution e Pachamama, e faremo un excursus di questi tre film, dove per vedere pezzi di quel film, e io parlerò di ognuna di queste cose approfondendo le tematiche di tutti i vari film. E poi ci sarà Emiliano Tosu, che è un pianista ex biologo che suona a 432 Hz e il luogo? E racconta la connessione tra musica, cellule e epigenetica e quant'altro. Sì. Il luogo è Armonia Mundi, non ricordo l'indirizzo, però l'albergo si chiama Armonia Mundi ed è vicino al Colosseo. A questo punto ci lasci tutti i tuoi riferimenti, anche relativi alla nuova campagna. Benissimo, sul sito unaltromondo.net si può trovare sia la data, questa data di Roma, che la possibilità di andare a curiosare sulla campagna di crowdfunding ancora attiva su Indiegogo, sul nuovo film che si chiama Choose Love. Però non vi anticipo niente e ve lo guardate tutti quanti. Certo, avremo modo poi di parlarne sicuramente in trasmissione. Thomas, io ti abbraccio, è sempre un piacere, a risentirci presto. Grazie Fede, d'abbraccio a te e a tutta la banda. Ciao. Grazie. Ciao ciao. Grazie mille, ciao ciao. Thomas Torelli, regista del documentario Food Relovution. Anna Rita Ciccone, regista del film I'm Infinita come lo spazio, in uscita in sala oggi, giovedì 16 novembre. Ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno. Mi avete beccato mentre stavo rigirando la pasta. me l'avevi anticipato che sarebbe... Esatto. Sarebbe successo, sì. Vabbè. Cucina, sono lì a cucinare, la regista mattaia. Allora, un film, diciamo subito in 3D, racconta un po' in breve di cosa si tratta, Anna. Allora, è un film in 3D, abbiamo girato in 3D perché volevamo utilizzare un formato un po' particolare, poi anche un utilizzo abbastanza sperimentale del 3D, anche per costringere la gente ad vederselo in sala, perché poi lo puoi vedere in televisione sul cellulare, però... Noi abbiamo creato un 3D come quello che è stato utilizzato per esempio da Wenders in Pina, piuttosto che appunto è stato usato anche in Hugo Cabret, eccetera, che è quello che crea una grossa profondità di campo, quindi sembra quasi di affacciarsi sul palcoscenico, insomma, della realtà di questa nostra protagonista, e così uno è costretto ad andare in sala, però esce anche non in 3D perché ha diverso gli occhialetti. È la storia di una 17enne che vive in un mondo distopico, nel senso una realtà che potrebbe sembrare la nostra, ma in realtà c'è qualcosa che non torna, forse una dimensione parallela, e che si ritrova però come qualunque essere umano su qualunque pianeta in un momento, diciamo, di svolta in cui deve decidere se inseguire un suo sogno o omologarsi al resto del mondo che sembra dirle qual è il suo posto e appunto di volare basso e di fare delle scelte più ordinarie. Quindi diciamo è un romanzo di formazione in cui i personaggi li abbiamo volutamente posti in una situazione appunto non realistica, perché così mi sembrava di poter raccontare la tematica nella maniera più universale possibile, non nazionalistica insomma. Come è partito tutto l'idea, il progetto? Allora, è colpa mia perché è colpa soprattutto di David Bush, che è un mio amico e che diciamo è colui il quale aveva fondato Cinecittà Digital, è uno dei pionieri del 3D ed è un grandissimo esperto di effetti speciali, ha lavorato con Roman Polanski, con Jean-Jacques Annaud a Bollywood, che è la cosa che mi diverte di più, e mi ha invitato nel 2009 a fare un seminario sul 3D. Io sono andata abbastanza scettica, invece poi appunto ho scoperto questo formato ha un valore espressivo enorme dal punto di vista dell'immagine, e da lì io ho proposto un soggetto che stavo scrivendo, cioè questo film in quel periodo lì stavo scrivendo il soggetto, l'ho proposto a Francesco Torelli, il mio produttore storico, questo è il quarto film che facciamo insieme, e l'abbiamo portato a Rai Cinema, che ci ha riconosciuto già uno sviluppo alla sceneggiatura, a me e Lorenzo D'Amico De Carvaglio, che è il co-sceneggiatore nonché mio marito, perché faccio tutto in casa essendo una mattaia. Allora, alla Rai Cinema è piaciuta molto l'idea di un genere così diverso, anche perché come avrai notato ultimamente sono veramente molto aperti al genere, alla novità. Io ho avuto Apripista come lo chiamavano Gig Robot, insomma, per fortuna adesso ci stiamo aprendo anche altri generi, e così è nato questo progetto attraverso 18 stesure di sceneggiatura. Nel frattempo io, mentre scrivo la sceneggiatura, ci ho scritto anche il romanzo, e ci abbiamo messo 7 anni a montare il film, perché finanziariamente per il produttore è stata una bella avventura riuscire a finanziare un film così ambizioso, perché in lingua originale inglese, in Italia esce ovviamente doppiato, con un cast internazionale, tutte le musiche sono state scritte da questa band tedesca industrial metal che si chiama Project Pitchfork, che mi hanno dato 13 canzoni da utilizzare come mi pareva. In più il frontman e compositore Peter Spillet mi ha fatto tutte le musiche, quindi è prima anche molto rock, cioè una roba molto ambiziosa per un progetto italiano. E quindi adesso eccoci qua, come dicevo, ieri sera abbiamo fatto la presentazione del romanzo che abbiamo scritto contemporaneamente, cioè io ho scritto durante queste 18 stesure di sceneggiatura, e ho promesso adesso farò anche le action figures, le figurine la serie TV, i pupazzi, una graphic novel. Cioè sono 7 anni che io sono dietro a questo progetto, quindi è diventato ormai una sorta di stalking, non è più l'amore verso quello che si fa. Senti, in quante sale sarà? Allora esce adesso, proprio poco fa la distribuzione ha mandato un elenco, credo che esca in una 30-35 sale in tutta Italia. Sì. E a Roma sta in 5 sale, cioè sta all'Adriano, a Lux, a Luci Cinema, poi sta Cineland a Ostia, poi sta Luci Cinema, a tutte e due Luci Cinema, e mi pare che oggi proprio se ne ha raggiunto un'altra, però adesso non ce l'ho sotto mano, ma sono veramente contenta perché diciamo l'uscita sale è difficile, è veramente difficile, è sempre più difficile, ci sono tanti film, c'è tanta concorrenza, diciamo che Coco Media sono stati bravissimi perché sono riusciti, anche grazie al fatto che siamo stati al Festival di Venezia, Giornata degli Autori, quello è un bel volano, e quindi sono riusciti adesso comunque a dare una distribuzione che secondo me è quella giusta, perché anche perché uscire in troppe sale, soprattutto un film come questo, che è un film molto particolare, molto strano, non so come verrà poi recepito, così forse sarà anche più protetto, insomma meglio puntare una buona media copia, capito? Bene. Piuttosto che fare quelli che si bruciano le ali, capito? No, infatti sono contenta. Bene. Cioè, la recensione, la critica è stata molto positiva fino adesso, ora la palla passa al pubblico, anche perché io film li faccio per loro, mica per me. quindi adesso andateci, vi prego, soprattutto il primo weekend, perché a volte c'è la solita ricatto del primo weekend. Datemi fiducia. Bene, allora un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, viva il lupo. Ciao Annerita. Ciao. Annerita Ciccone, regista del film I'm Infinita, come lo spazio, in uscita in sala oggi giovedì 16 novembre. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione sono sul sito, sempre sull'home page, colonna centrale, la voce trasmissioni Visionari, pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Romano Fattorossi, direttore della 27esima edizione di In Video, mostra di video e cinema oltre, a Milano da oggi fino al 19 novembre. Romano, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao, buongiorno. Allora, un festival che ha una sua storia, 27esima edizione. Allora, raccontaci un po' quali sono le sue peculiarità e quali sono le proposte di quest'anno. Guarda, ha veramente una sua storia, 27 anni cominciano ad essere tanti effettivamente, e siamo riusciti ad andare avanti anche quest'anno e siamo molto contenti, anche se è stato faticosissimo. Allora, peculiarità di quest'anno, il festival come sempre è organizzato in due parti, diciamo. Sì. Una è la selezione internazionale e l'altra sono i focus, cioè degli approfondimenti, che sono 10 quest'anno, che vengono scelti dalla direzione, sono personali di autori, presente, performance e varie cose. Innanzitutto partiamo dal titolo. Noi, tu come sai, il titolo di ogni edizione nasce dalla presentazione, dalla visione delle opere, e quest'anno tra le 33 opere che presentiamo abbiamo individuato come titolo Origini, perché c'è è come se tutti quanti in questo momento facessero un passo indietro per poi trovare la forza per farne due in avanti. È una cosa di cui credo tutti abbiamo molto bisogno in questo momento, no? Un attimo di riflessione per poi cercare di partire con il piede giusto. quindi ci sono richiami alle origini della videoarte, ma ci sono anche cose più, ti faccio un esempio più esplicito. Giuseppe Baresi, che è un filmmaker storico milanese, viene a presentare quattro nuovi giovani autori che lui considera i suoi eredi, diciamo, praticamente a lanciarle, dire questi sono, fare cinema oggi, fare video oggi è diventato, è questa cosa qua. Mm-hmm. E se... questo è un esempio. Sì, sì. Oppure che tipo altro, se vuoi ritorno all'origine anche questo, venerdì sera presentiamo il ritratto che fa di suo padre la Fabio Sargentini, la Fabiana Sargentini, no? Il gallerista, sì, Fabio, sì, Sargentini, sì. È il gallerista dell'Attico che ha lanciato, esatto, è stato molto importante, è molto importante nell'arte contemporanea, la Galleria dell'Attico non esiste più ma luce ancora. E che altro tipo, ah sì, per esempio la chiusura, ti va a saltello qua e là nel programma, ma la chiusura facciamo una performance di resistenza analogica in quest'epoca super digitale. Ci è sembrato molto molto interessante questo gruppo che si chiama Unza Lab, che lavora con i 16 mm e il Super 8, quindi metteremo in sala una decina di proiettori, ci sarà dei musicisti che dal vivo musicano le immagini. E quindi è anche questo un passo indietro all'analogico per andare avanti con tecniche, sì, digitali, per fare un lavoro nuovo. Sì. Senti Romano, volevo chiederti quante sono le opere presentate in questa edizione? Allora, le opere complessivamente sono circa 100, quelle, sì, nella selezione internazionale invece sono 33, le altre, sì, sono tutti focus, approfondimenti come ti stavo spiegando in questo momento. Certo. Senti, il programma e tutte le indicazioni, ci dai dei riferimenti internet? Eh sì, naturalmente. Allora, sul nostro sito, che è mostrainvideo.com, c'è tutto il programma, c'è anche il catalogo digitale da, in italiano e in inglese, che si può consultare, scaricare, fare un po' quello che si vuole. Senti, se posso segnalare, come no? Sì. Cioè, no, poi ti volevo chiedere anche indicazioni su orari e luoghi. Ah certo, scusa, io sono ormai da milanese, invece parli a tutta l'Italia. La cosa si svolge a Milano e si svolge allo spazio Oberdan, che, sì, che è, sì, la sala della Cineteca Italiana, che è in al metro Porta Venezia, molto facile da raggiungere. Bene. Salvo gli approfondimenti, le masterclass, che sono tre, una c'è stata stamattina di Anthony Pinent, che è un autore catalano, e domani ce ne sono altre due, che sono Matias Guerra, un regista cileno, e Igor Imhoff, che è un animatore italiano, malgrado il nome, e ciascuno di loro incontra, questi si svolgono lo Yet, che in via Scesa, piazza Cinque Giornate, per capirsi. E poi volevo segnalare, se posso, come no, ancora un attimo di tempo, domani alle 18 c'è una personale sempre di Anthony Pinent, questo regista catalano, che si chiama Scolpire la luce, perché lui non utilizza la telecamera, fa parte di quella filone che parte da McLaren, da Brackage, che lavora con direttamente sulla pellicola, e quindi fa dei lavori grandissimo, di grande impatto, difficili naturalmente, ma per esempio traduce in spazio temporale la visione della Gioconda, quindi praticamente la inquadra pezzettino per pezzettino, li fa scorrere tutti da destra a sinistra, in modo che tu hai una Gioconda che viene come declinata sullo schermo, sì, per capirsi, sì, ecco, sì, non so, sì, se ho reso l'idea. Sì. Beh, bella esperienza. Senti Romano, io ti ringrazio, un abbraccio, tutte le indicazioni le abbiamo date per approfondimenti e dettagli sul programma, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, mostrainvideo.com il sito. Perfetto, a presto. Grazie, ciao. Ciao Romano. Romano Fattorossi, direttore della 27esima edizione di In Video, mostra di video e cinema oltre, a Milano da oggi fino al 19 novembre. Alberto Ravaglioli, direttore della 37esima edizione del Fanta Festival, che sarà al My Cityplex Savoy qui a Roma dal 22 al 26 novembre. Ben ritrovato su queste frequenze, Alberto. Grazie, ben trovati anche voi. Allora, 37esima edizione, un festival che continua nonostante tutto. Nonostante tutto, hai detto bene, veramente non so se riusciremo a compiere questa impresa anche negli anni prossimi, perché la situazione si sta facendo sempre più pesante col Comune di Roma che non esiste più dal punto di vista di appoggio alla cultura cinematografica, perché sapete bene da che è venuta la brillante idea della Festa del Cinema. Hanno drenato qualsiasi possibile contributo, qualsiasi possibile aiuto a tutti i cineclub, a tutte le iniziative che c'erano. Roma era abbastanza ricca da questo punto di vista. Adesso è il suolo della luna proprio ridotto. Comunque. Bando alle lacrime, che annoio me stesso sentirmi piangere. Senti, quante opere in questa edizione? Questa edizione devo dire nel complesso a pochi film, perché purtroppo per il discorso di qui sopra sì, ci siamo ridotti a una sola sala e a 5 giorni, per cui più di tanto, però devo dire che ci sono in mezzo anche film interessanti, piacevoli, divertenti, e soprattutto è stato dato un ricco spazio ai cortometraggi, che comunque, pur avendo ovviamente meno respiro del lungometraggio, sono indicativi di certe tendenze di certi paesi. E veramente il programma quest'anno è di una ricchezza infinita, perché per una serie di motivi che da una parte ci fa molto piacere, perché vuol dire che il Fantafestival è molto popolare all'estero, dall'altra parte ci ha preso impreparati e ci ha sepolto letteralmente sotto una valanga di cose che abbiamo dovuto vedere. Tu pensa che da 89 paesi di tutto il mondo ci sono arrivati complessivamente oltre 2700 opere, che vuol dire, non lo so, alcune decine di migliaia di ore di filmati, una cosa pazzesca. Per cui è stata veramente un'impresa improba, però il fatto di vederci arrivare dei film dall'Afghanistan ci ha stupito e lusingato. Sì, sì. Senti, da questo punto di vista, quali sono un paio di domande: quali sono i paesi più vivaci rispetto all'horror e che direzione sta prendendo l'horror oggi? I paesi più vivaci, a parte quelli tradizionali e paesi anglosassoni, gli Stati Uniti in testa, poi l'Inghilterra, il Canada quelli asiatici tipo la Corea e il Giappone, si cominciano a muovere molto vari paesi europei, molto la Russia per esempio, sì, che ha mandato un sacco di film, ci sono arrivati una marea di film dai paesi islamici, e fra l'altro vorrei anche parlare con qualcuno esperto di questo mondo, perché su credo 300 film che sono arrivati tra l'Iran, l'Iraq, l'Afghanistan appunto, e poi ancora paesi asiatici più in là, non ce n'è stato uno in tema. Vorrei capire, proprio per mia curiosità personale, se nella filosofia, nell'etica di questi paesi il genere fantastico è qualcosa di totalmente alieno. Mm-hmm. Mentre invece da quei paesi europei sono arrivati dei filmati, sia lungometraggi che corti, molto interessanti, e poi stanno diventando un tradizionale bacino di produzione importante anche i paesi dell'America Latina, soprattutto l'Argentina, che anche l'anno scorso è stato premiato un film argentino come miglior film pipistrello d'oro. E anche quest'anno ha mandato un sacco di roba, tutta abbastanza interessante come tematica. Sì, sì. Senti, ecco, rispetto alle direzioni dell'horror, ma a parte che noi parliamo di fantastico, per cui sì, è horror, è fantascienza, sì, e fantasy, sì, sì. Però hai detto bene, perché in realtà la fantascienza sta sparendo, perché sono diventati ormai da molto tempo, da Guerre Stellari in giù, talmente costosi, talmente complessi i film importanti di fantascienza, che la produzione media o quella indipendente non si possono più permettere di fare un film di fantascienza, perché non ti puoi mettere in competizione con gente che mette sul tavolo 100 milioni di dollari per produrre un film, per cui si riversano sull'horror, che è molto più economico, molto più facile, perché sa, buttare un secchio di trippa contro l'obiettivo costa meno che creare delle astronavi che sembrano vere. Fondamentalmente la tendenza è quella, però ancora si vedono dei film di fantasy interessanti con qualche idea, che naturalmente il problema è sempre quello delle idee. Io l'ho detto fino alla noia, che senza una sceneggiatura valida e voglia mettere soldi, e questo lo vediamo anche nelle grandi produzioni, perché proprio i soldi saltano fuori come molle, ma poi dietro a quello non c'è nient'altro, quando manca una sceneggiatura, un soggetto intelligente. Certo. Senti, ecco, rispetto alla fantascienza, giustamente, perché io mi ero un attimo fissato con l'horror, nell'immaginario l'altro da sé è un'opportunità o una minaccia ultimamente? Beh, ormai da molto tempo, così come sono stati riabilitati gli indiani nel genere western, gli alieni sono stati rivalutati nel genere fantastico, a parte l'alien per antonomasia, che continua a essere un cattivaccio tremendo. Senti, per tutti i riferimenti web per il programma ci lasci tutto? Sì, il sito, che è sempre quello, www.fanta-festival.it. Benissimo. Dove fra l'altro il sito è molto ricco, secondo me anche abbastanza bello, e si possono trovare, a parte tutte le novità, il programma online eccetera, e tra l'altro invito gli appassionati a consultarlo quotidianamente, perché se ci fosse qualche variazione al programma, sempre possibile anche nelle migliori famiglie, ci sono comunque, c'è un archivio ricchissimo delle passate edizioni con grandi ospiti, cioè un sito da consultare anche fuori festival. Bene, allora io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, ci vediamo alla Savoia. Benissimo, a presto, ciao. Ciao. Alberto Ravaglioli, direttore della 37esima edizione del Fanta Festival al My Cityplex Savoy qui a Roma dal 22 al 26 novembre. Ritroviamo Rodrigo Diaz, direttore della 32esima edizione del Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste al Teatro Miela dal 18 al 26 novembre. Rodrigo, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille, grazie mille. Allora, un festival storico per quanto riguarda il cinema latinoamericano. Quante opere quest'anno saranno proiettate? Sono circa 95. No, grandi numeri. Sì, oddio, più grandi sono i numeri dei film sottotitolati. Sì. Sono una cinquantina. Sì. Ed è grazie alle convenzioni che abbiamo stabilito con la scuola di interpreti dell'Università di Trieste, da sempre, dal 93, e da adesso, da quest'anno, con l'Università di Udine. Quindi loro mettono a disposizione, c'è una fase di formazione in cui i ragazzi imparano a sottotitolare in digitale, ma già hanno la lingua, hanno lo spagnolo e il portoghese dietro. Sì. Senti, i paesi rappresentati, un po' tutti del Latino America. Sì, c'è qualcuno che non c'è, ma quelli che non ci sono spesso non è un problema di scelte artistiche da parte nostra, ma a volte hai dei vincoli, hai film che interessano, ma che c'è un agente internazionale che pone dei fee che sono insopportabili, insomma, a volte hai dei problemi tra il regista e il distributore internazionale, per cui non si sono messi sono ragioni di questo tipo che a volte impediscono, e uno alla fine dice che non ci sia un paese per un anno, non capita niente, ecco. Sì. Senti, quali sono le tematiche più ricorrenti nei film che proponete quest'anno? La tematica più ricorrente è la varietà. Ok. Cioè, sai, io vengo di un periodo in cui il cinema in America Latina era il cinema impegnato, era il cinema con grandi connotazioni sociali, compagnia. Certo. e nel tempo con molta saggezza un po' tutti hanno usufruito di uno scenario straordinario che è un continente di commistioni, di incontri, di razze, di storie, di culture, di sofferenze, di tragedie, cioè il continente ha tutto, no? Sì. E ognuno a modo suo ha saputo o ha voluto leggere le diverse realtà, o tramite la commedia o tramite il documentario, insomma credo che in questo il continente dia segnali di una grandissima vitalità. Senti, sia documentari che lungometraggi di finzione? Sì, oddio, sai, noi abbiamo fondamentalmente due sezioni, ma poi abbiamo anche alcuni eventi speciali che sono molto importanti, non so, abbiamo un bellissimo appena finito un documentario su Astor Piazzolla che presentiamo all'inaugurazione, c'è un bellissimo film su Roberto Bolaño, abbiamo un film sulla Nobel dell'ambiente, la Berta Cáceres, la honduregna uccisa un anno e mezzo fa, no? Abbiamo un film sul muro così voluto da Trump, ma che è partito ai tempi di Clinton, no? Perché sì, non sì. Occorre dimenticarsi, cioè insomma hai una varietà di certo. Hai cinema e letteratura e lì hai alcune cose un po' terribili perché il film Nadie di Coyula, il cubano, che racconta la storia di un grandissimo scrittore che è caduto in disgrazia negli anni 60, oggi ne avrà 85 anni e ha fatto tutti i suoi libri in quella carta che noi conosciamo, coloro che noi che abbiamo visitato tante volte Cuba conosciamo la carta cubana che è grigia, porosa, no? Ecco, stanno recuperando oggi i suoi libri, sono 4-5, non so, credo che siano 8 i libri che ha scritto nel frattempo, sì. E che sono lì nell'oblio, no? Sì. Perché era caduto in disgrazia, perché un po' eretico, insomma. E lui era un amico di Fidel negli anni 60, non so, poi io non conosco le vicende come sia caduto in disgrazia. Il fatto è che tutto il suo lavoro fu fatto nella più assoluta solitudine. Sì. No? Senti Rodrigo, per quanto riguarda il programma, ci dai riferimenti web dove si può trovare sì, tutto? Oddio, tutto, quasi tutto come mai prima c'è nella pagina web www.cinelatinotrieste, tutto attaccato, .org. Benissimo. E lì la gente trova tutto, trova anche le sceneggiature, trova qualche trailer già che può bene. Vedere, insomma il programma e ma poi anche tutte le indicazioni atte a poter venire senza incertezze a Trieste. Bene, allora ricordiamo 32esima edizione al Teatro Miela a Trieste dal 18 al 26 novembre. Rodrigo, un abbraccio, in bocca al lupo. Grazie mille, buon lavoro. Ciao. Grazie a te, ciao. Con Carmen Danza di M2 Pictures sulla distribuzione del film La signora dello zoo di Varsavia, in uscita in sala oggi, giovedì 16 novembre. Carmen, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie di avermi invitata. Un po' a tua insaputa, vabbè. Vabbè, insomma, le cose fatte all'ultimo, così improvvisate, sono sempre quelle che riescono meglio. Bene, allora, per chi ci ascolta, raccontiamo un po' la storia di questo film. Allora, La signora dello zoo di Varsavia è tratto da una storia vera che prima di diventare film era già stata, diciamo, trascritta in un libro, un bestseller internazionale scritto da Diane Ackerman. Fondamentalmente lo scenario è quello della Polonia del 1939, quindi insomma agli inizi della Seconda Guerra Mondiale, con la Germania che invade la Polonia e inizia la persecuzione degli ebrei. A Varsavia i custodi del giardino zoologico della città, Jan e Antonina Zabinski, decidono praticamente di cercare di aiutare gli ebrei della città a sfuggire alla persecuzione, e quindi al loro rischio e pericolo, anche insomma mettendo a repentaglio la vita dei loro figli, cominciano insomma a cercare di far uscire dal ghetto di Varsavia più persone possibili, nascondendole inizialmente nei sotterranei e negli spazi riservati agli animali del loro zoo, che nel frattempo è anche insomma stato preso, come dire, sotto il protettorato anche lì della Germania. Sapete insomma che anche Hitler e i suoi avevano delle teorie molto, come dire, anche fantasiose rispetto a le specie animali, facevano insomma diversi esperimenti, quindi anche lì si ritrovano a dover nascondere, a cercare di nascondere e aiutare poi a fuggire queste persone, avendo comunque le truppe tedesche praticamente in casa. Sì. Come vi dicevo prima, appunto, tutta storia vera, è un po' uno Schindler's List al femminile, se vogliamo. E tra l'altro l'altra peculiarità del film è che è proprio, diciamo, tutto il team di produzione, la regista, ovviamente Jessica Chastain protagonista, cioè c'è dietro tutto un film femminile, sì, un team femminile. Sì, sì. La regista è Nikki Caro, che probabilmente ricorderete per La ragazza delle balene di qualche anno fa. E insomma il film esce oggi in tutta Italia, andatelo a vedere perché è una storia veramente, secondo me, importante da conoscere e da far conoscere. Carmen, ecco, come l'avete trovato questo film, come avete deciso la distribuzione e in quante sale sarà? Guarda, allora ti dico, è stata una storia talmente forte che è un film che abbiamo comprato su sceneggiatura. Ok. Insomma, quindi una preacquisizione di addirittura quasi 3 anni fa. Il film non aveva neanche iniziato le riprese all'epoca. Gli unici elementi che avevamo erano appunto la sceneggiatura e il fatto che ci sarebbe stata Nikki Caro alla regia e Jessica Chastain protagonista, ma ti ripeto, era una storia talmente particolare, talmente forte, che insomma che ci ha conquistato e abbiamo voluto insomma prenderlo immediatamente. Il film esce in circa 200 sale in tutta Italia, sarà accompagnato anche da un progetto speciale che stiamo facendo con il supporto di Circuito Cinema Scuole, con insomma tutte le scuole d'Italia, quindi al di là della distribuzione in sala organizzeremo insomma tutta una serie di mattinee, proiezioni dedicate alle scuole che lo richiederanno. Bene, allora io ti ringrazio Carmen, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, a presto. Ciao. Ciao, ciao. Carmen Danza di M2 Pictures sulla distribuzione del film La signora dello zoo di Varsavia, in uscita in sala oggi giovedì 16 novembre. Matteo Scarfò, regista del film L'ultimo sole della notte, al Cinema Teatro Flavio qui a Roma dal 20 al 26 novembre. Matteo, benvenuto, ben ritrovato, ciao, a Visionari. Ciao, ciao, ciao. Allora, lo raccontiamo in breve? Sì, è un film di fantascienza post-apocalittico, però è ambientato in un futuro, ma parla molto dei nostri giorni, quindi del nostro presente. Quindi è un film di fantascienza sociale, ispirato a James Ballard, dello scrittore inglese di fantascienza. Senti, ecco, a proposito di Ballard, raccontaci un po' com'è nato tutto il progetto, come si è sviluppato. Sì, io stavo leggendo qualche anno fa Il Condominio, che è uno dei suoi romanzi più famosi, e ho avuto le prime visioni di quello che poteva essere un progetto cinematografico, e poi ho inserito delle cose che avevo visto nella mia vita e soprattutto una certa alienazione della città e di alcuni luoghi, e poi per me erano raccontati benissimo dalla fantascienza, e quindi ho voluto fare questo film. Senti, un genere poco praticato dalla nostra cinematografia. Sì, purtroppo sì, non c'è una grande tradizione del fantastico, ma proprio della fantascienza c'è pochissimo in realtà, qualcosa sì. Degli anni 70, 80, in realtà anche 60, penso per esempio a Mario Bava, a Antonio Margheriti, però la fantascienza vera in Italia non è stata, spero comunque che il mio possa avere un po' di visibilità anche per questo motivo. Sì. Senti, per quanto riguarda la lavorazione, com'è stato tutto quanto? La lavorazione, non c'è stato un momento preciso in cui abbiamo detto facciamo un film, perché è stato un progetto in divenire che poi okay. Ho prodotto con la mia casa di produzione, quindi si possono immaginare tutte le difficoltà produttive anche distributive. Infatti la lavorazione intera, da quando è stato pensato, è finita, è durata più di 3 anni. Okay. Quindi si può immaginare il lungo il processo e la difficoltà. Sì. Senti, questo titolo? Il titolo, L'ultimo sole della notte, perché si riferiva a un sole nucleare, a un sole atomico, la bomba atomica. Infatti il film è un post-apocalittico, parla di una guerra atomica. L'unico sole notturno potrebbe essere questo, il sole nucleare. E poi mi piaceva il contrasto appunto del titolo, che era anche il contrasto che vivono la zona dalla quale non riescono a uscire. Vivono un po' nel passato e un po' in questo presente, le regole sono state stravolte. Senti, sarà in programmazione qui a Roma per una settimana, e altre informazioni? C'è un sito internet, una pagina Facebook? Che si chiama ultimosolenotte.it. Lo abbiamo perso. Pronto, Matteo? Ti stiamo perdendo, ti sento malissimo. Dicevo, lunedì 20 c'è l'incontro 18, sempre al teatro, contemporanea della fantascienza italiana, un incontro che precede il film. Siamo con alcuni esperti di cinema e parliamo di questo. Benissimo. È l'incontro ovviamente gratuito. Benissimo, allora un abbraccio, un grazie in bocca mille. Al lupo e a presto. Grazie. Ciao. Grazie, Matteo. Grazie, ciao, ciao. Matteo Scarfò, regista del film L'ultimo sole della notte, che sarà programmato qui a Roma al nuovo Teatro Flavio dal 20 al 26 novembre. Adriano Zecca, regista del documentario Sulla pelle dei bambini, che sarà presentato a Cinisello Balsamo il prossimo 18 novembre. Adriano, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie, grazie, buongiorno. Allora, si parla di sfruttamento dei bambini, raccontaci come. Ma sì, intanto voglio dire che appunto a Cinisello si presenta il documentario, in quanto il 18, sabato 18, diciamo, c'è la ricorrenza della giornata mondiale in favore dei diritti dell'infanzia. Okay. E quindi era l'occasione giusta per presentarlo. E niente, il documentario in pochissime parole prende spunto da questa drammatica situazione del lavoro minorile, che seppure diminuito negli ultimi 10-12 anni, però ancora sono 170 milioni le bambine e i bambini che praticamente fanno un lavoro che è un vero e proprio sfruttamento. E oltretutto è diminuito in questi ultimi 10 anni, però l'Organizzazione Internazionale del Lavoro fa sapere che invece è aumentato però il lavoro a rischio, cioè proprio quei lavori dove rischi persino, appunto come il titolo del documentario, la pelle, insomma, perché sono lavori molto molto pericolosi. Il documentario, devo dire che io negli ultimi anni mi sono dedicato a far conoscere questa realtà e ho realizzato 13 episodi, 13 documentari per le televisioni, sia in Svizzera che nel Rai, così, che hanno avuto anche un notevole interesse. Però poi a un certo punto ho pensato, siccome ogni episodio, ogni documentario era il lavoro minorile in un paese, e quindi uno vedeva quello ma non vedeva gli altri, conosceva quella realtà ma non altre, allora ho pensato di fare un montaggio, ho fatto un lungo montaggio recuperando un po' tutte, guardandomi tutto il girato di anni, e l'ho raccolto in 30 minuti. È diventato un lavoro molto efficace, in quanto documenta questa vergognosa realtà in 9 paesi dell'America Latina, Africa e dell'Asia. Bene, bene. Senti, quali sono intanto i luoghi internet dove si possono ottenere informazioni rispetto anche a una programmazione pubblica? Io adesso sono su Facebook come Adriano Zecca, oppure www.adrianozecca.it c'è il mio sito, e questi sono i due spazi dove si può diciamo così, sapere un po' quello che avviene. Sì. Una cosa che volevo magari sottolineare, che io ho volutamente in questo documentario portato tutto in bianco e nero. Okay. Per renderlo ancora più veritiero, no? Non c'è un commento, ma solo interviste e testimonianze dei bambini, e non c'è musica, ma solo il sonoro originale. Veramente un po' un tornare alle origini, cioè quel cinema verità che in questi casi mi sembra molto appropriato, ecco. Poi un'altra cosa volevo dire, che io ho avuto due bei importanti riconoscimenti in festival internazionali. Però ci tengo a dire che in molti festival, tra questi anche molti italiani, non ho potuto partecipare, in quanto il documentario, così come è concepito, viene escluso per le mancanza di certe specifiche tecniche che loro richiedono assolutamente. Quindi tu non puoi neanche inviarlo perché non rientri in quei canoni. Sì, sì, pertanto, sì. Quello che è veramente desolante, che loro escludono senza nemmeno vedere di cosa si tratta. Certo. Il contenuto conta così poco che nemmeno lo vogliono vedere, sì, capisci? Sì. Questo è un grosso problema. Sì, sì. Senti Adriano, dopo questa presentazione a Cinisello è prevista un altro tour festivaliero, uscite in sala, programmazioni televisive, che altro? Dunque, guarda, è ancora in ballo in alcuni festival internazionali. Ok. Poi televisione è difficile, non ci sono spazi adeguati, seppur ho avuto dalla Rete 3 complimenti e tutto, però no, niente da fare, quindi per il momento non saprei. Okay. Quello che sì, mi hanno proposto di farlo circolare nelle scuole, e questo lo farò senz'altro, anche se diciamo è soltanto per i ragazzi studenti, ma io credo che sono proprio i giovani quelli, diciamo, certo, che più hanno bisogno di conoscere, diciamo, queste realtà. Bene, Adriano, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Bene, a presto allora, grazie a te. Ciao. Arrivederci, ciao ciao. Adriano Azzecca, regista del documentario Sulla pelle dei bambini, a Cinisello Balsamo il prossimo 18 novembre. Sandro Baldoni, regista del documentario La botta grossa, in uscita in sala il 20 novembre. Sandro, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Eccoci. Allora, si parla di terremoto, di quale terremoto, in che modo, Sandro? Allora, il terremoto è quello dell'ottobre che c'è stato in Marche, nelle Marche in Umbria, che è stato, sì, il più forte degli ultimi 40 anni. Che è stato ancora più forte di quello di Amatrice, e non ha fatto morti solamente perché le case erano costruite meglio e perché ci sono state alcune scosse di avvertimento, sì, prima, quindi la gente ha fatto in tempo a mettersi in salvo. Sì. Come ne parla, il tentativo è quello di discostarsi più possibile dai telegiornali, di fare un racconto un po' più intimo di quello che il terremoto ha rotto all'interno delle persone, insomma all'interno delle teste, dei cuori. Sì. Senti, è basato su quindi interviste a chi ha vissuto in prima persona questa esperienza? Sì, diciamo che c'è un tessuto di interviste e scene anche girate all'interno della quotidianità. Per esempio c'è una scena girata di notte in un posto in cui erano riunite una sessantina di persone, quindi con tutti gli umori e le proteste, le file ai bagni, eccetera eccetera, no? Sì, sì, sì, quindi sì. Non solo interviste, ma anche il racconto di una quotidianità che di persone costrette a stare assieme, dove escono fuori un po' tutti gli umori delle persone, no? Sì, sì. In quel senso anche un po' a volte ironico, a volte divertente, a volte oggettivo sulle reazioni delle persone. Sì. Sandro, due curiosità. La prima è in che località ti sei mosso, e la seconda è qual è la quotidianità dopo il terremoto? Sono sì, luoghi ancora che si stanno riprendendo o segnati profondamente? Allora, mi sono mosso soprattutto, diciamo, sono tre macro racconti che poi hanno delle sottostorie. Una è quella della comunità di Campi di Norcia, che è proprio una comunità che praticamente si è resa indipendente, infatti è stata soprannominata la Libera Repubblica di Campi, si è resa indipendente dalla Protezione Civile, dalla Croce Rossa, si è autogovernata, si è autofinanziata via internet. Sì. E è rimasta coesa intorno, insomma, nei dintorni dei campi, hanno continuato a coltivare gli orti, a badare gli animali, eccetera, quindi hanno mantenuto il loro tessuto. Sì, sì. A differenza invece delle persone che sono state, dei paesi che sono stati evacuati nelle Marche, come Visso, Fiastra, Ussita, Castel Sant'Angelo, lì sono arrivati praticamente con dei pullman e hanno evacuato nel giro di 48 ore tutte le popolazioni e le hanno trasportate al mare. Sì. Al mare, a differenza che a campi, c'è una dispersione delle comunità, una disgregazione della comunità, no? Quindi, certo. Mentre quelli che sono stati assieme, diciamo, hanno in qualche modo superato il lutto, stando assieme, badando, continuando, insomma, ad avere dei rapporti con la propria terra, gli altri le comunità si sono disgregate, quindi c'è stata un grande aumento dell'uso degli psicofarmaci, c'è stata una parcellizzazione proprio molto forte, quindi e quando sono tornati su, quei pochi che sono tornati su e non sono più al mare, hanno dovuto ricominciare da capo, nel senso dovevano in qualche modo attraversare il lutto un anno dopo. Sì, sì, sì. La situazione attuale è quella del risveglio da un lungo incubo / sogno. Adesso si ha a che fare con la realtà, perché non ci sono più addosso i media, non ci sono più addosso i riflettori. Sì. E la realtà è che questa gente deve stare 7, 8, 9 anni lontano dalle proprie case, con le vite rivoluzionate, lavori cambiati, attività proprie che sono state che non funzionano più, no? C'è una piccola economia di quasi di sussistenza, e quindi completamente reinventarsi la vita in case piccole che a volte non sono neanche state ancora completate, senza bagno, senza servizio. Insomma, è un ricominciare precario, molto difficile. Sì. Sì, sì. Il terremoto mi spiace completamente, ti taglia le radici. Sì, sì. Senti Sandro, in chiusura, che distribuzione sarà al partire dal 20? Allora, a partire dal 20 la distribuzione è quella di Istituto Luce, diciamo che adesso a Roma al Farnese abbiamo fatto un'anteprima con Nanni Moretti al Nuovo Sacro, facciamo un'anteprima al Farnese dove rimarrà un po' di giorni, martedì alle 20:30 farò una presentazione al Farnese e poi sarà, diciamo, 5-6 delle principali città e poi un tour soprattutto per ora in Umbria e nelle Marche, cercando insomma di stare vicino anche alle popolazioni colpite e anche discutere, insomma, mantenere un po' di luce sul problema anche con le amministrazioni e poi sperabilmente, se insomma c'è interesse, come sembra che ci sia da queste prime ci sono avvisaglie di interesse cosiddetto, lo faremo crescere un po'. Certo, è ovviamente che trattandosi di un documentario un po' un vaso di coccio. Certo. Però insomma, intanto ci puoi dare i riferimenti internet, se c'è una pagina Facebook, un sito internet per saperne di più. Sì, guarda, stavamo discutendo proprio oggi, comunque la pagina Facebook di Acqua su Marte si chiama. Benissimo. Acqua su Marte, che è la nostra società di produzione, perché noi l'abbiamo coprodotto con Rai Cinema, la nostra società. Lì si può trovare tutto, però adesso faremo una pagina dedicata, insomma. Benissimo, allora ci farai sapere. Va bene. Sandro, un abbraccio, un in bocca al lupo, a presto. Un saluto a tutti, ciao, grazie. Ciao. Sandro Baldoni, regista del documentario La botta grossa, in uscita in sala il prossimo 20 novembre. E con lui concludiamo Visionari, che torna giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15, tra qualche istante. Tracce di cinema, buon proseguimento.